America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. A merger between two pharmaceutical giants has been called off. U.S. company Pfizer and Irish competitor Allergan had planned a $150 billion merger that would have created the largest drug company in the world. Chiuso l'affare Pfizer-Allergan. Pensate, un affare da 160 miliardi di dollari. Chiuso anche l'affare Halliburton-Baker Hughes, che sono due società che operano nel settore dell'esplorazione petrolifera, due società texane. Era un'operazione da 35 miliardi di dollari, poi caduto il prezzo del petrolio si era ridotta a 25 miliardi. Pensate soltanto alle commissioni che hanno perso i banchieri, 350 milioni di dollari solo operazione Pfizer. Ecco, tutto questo è successo negli ultimi giorni. La rinuncia di Pfizer l'abbiamo avuta ieri, e tra l'altro Pfizer, naturalmente lo spiego a chi non conosce l'azienda, è una grossa multinazionale farmaceutica. Il prodotto per cui è più conosciuta è il Viagra, e Allergan è una piccola società irlandese che però produce il Botox, di nuovo un prodotto molto conosciuto. Le ragioni per la rinuncia ad affari che sembravano già fatte sono molto diverse, però hanno in questo caso una matrice comune: l'intervento del governo americano. Nel caso di Pfizer c'era la spasmodica ricerca di metodi nuovi per evitare di pagare le tasse. Del resto il tema è centrale. Oggi continuiamo a seguire lo scandalo dei Panama Papers, la notizia di oggi tra l'altro che ci sono dentro anche le figlie di Stanley Kubrick, il grande regista di Arancia Meccanica, che aveva una società panamense per sfruttare i diritti dei film. Dunque la questione fiscale ormai è endemica. E torniamo a Pfizer. Che cosa si sono inventati gli esperti fiscali per aggirare il fisco nel caso di Pfizer? È una tecnica secondo cui un'azienda straniera più piccola, che opera in un regime fiscale favorevole, come nel caso di Allergan, che ha sede in Irlanda, si compra l'azienda più grande, cioè la Pfizer, che con la nuova proprietà diventa irlandese e dunque non paga più tasse societarie in America per tutte le attività estere. È ovvio che se fa profitti in America con la consociata americana, le tasse le deve pagare. I am very pleased that the Treasury Department has taken new action to prevent more corporations from taking advantage of one of the most insidious tax loopholes out there and fleeing the country just to get out of paying their taxes. Ecco, avete sentito, il presidente Obama si lamentava da tempo per queste operazioni di inversion, si lamenta da tempo per il fatto che le società americane tengono anche soldi all'estero, non li rimpatriano, sempre per evitare di pagare le tasse. Che è successo? Che il Tesoro americano lunedì è intervenuto, e questo intervento secondo me era dovuto da tempo in effetti, ed è anche giusto che si sia fatto qualcosa dal punto di vista del Congresso. Pfizer, ma comunque le aziende che fanno questo tipo di operazioni, hanno passato il segno. Le regole che ha introdotto lunedì il Tesoro sono complesse, dunque ve le risparmio, ma di fatto rendevano del tutto inutile questa operazione, e quindi si è capito che non era un'operazione industriale ma era un'operazione fiscale. Aggiungiamo a questo che comunque c'è un'atmosfera rovente in America per via delle elezioni, perché al di là delle operazioni di inversion, come vi dicevo, il mondo imprenditoriale americano diciamo in generale non ci sta facendo una gran bella figura. È sotto attacco nelle elezioni, nei comizi sentiamo che sono sotto attacco le banche, sono sotto attacco le aziende. Perché? Perché comunque tengono parcheggiati all'estero migliaia di miliardi di dollari, una liquidità che hanno ottenuto in altri paesi. Non vogliono rimpatriarli perché sennò devono pagare le tasse in America, e questo quando l'America, anzi diciamo la classe media americana, soffre per mancanza di un reddito che consenta mediamente di risparmiare alla fine del mese. Dunque il tema è fortissimo dal punto di vista elettorale. I want companies to know if they walk out on America they're going to pay a price, and if they ship jobs overseas we're going to make them give back the tax breaks they receive here at home. Ecco, avete sentito Hillary Clinton, la sua reazione. Vi faccio sentire Hillary Clinton perché ovviamente Bernie Sanders, essendo a sinistra di Hillary, è felicissimo di quello che è successo con la decisione del Tesoro e con il blocco di questa operazione. Ma Hillary, che in teoria è più centrista, beh, anche lei ha capito che insomma bisogna muoversi e dunque si è lanciata a peso morto per appoggiare l'iniziativa dell'amministrazione Obama. Il problema però, secondo me, è che la partita non è chiusa, perché questa retorica elettorale alla fine non aiuterà a risolvere il problema fin troppo serio per l'economia americana, di queste migliaia di miliardi che girano, che ballano. Non può essere tutto ridotto a uno slogan, perché ieri sono stati puniti per esempio i banchieri che non incassano le commissioni, le aziende che cercavano di proteggersi da tasse che secondo loro sono troppo elevate. Certo, bisogna anche rendersi conto che queste aziende che cercano scorciatoie senza neanche rendersi conto che l'umore del paese è cambiato e che il Congresso è ferocemente contro, beh, diciamo, non sono molto sagge. Questa è l'atmosfera di oggi. Però un domani, passate le elezioni, beh, io credo che ci dovrà rendere conto che il problema è molto più serio. Perché se queste aziende fanno quello che fanno, forse anche perché il sistema fiscale americano, che tutti pensiamo essere molto generoso, in realtà generoso non lo è per nulla. E dunque bisognerà tener conto che il problema è ampio e che ci vorranno riforme anche sul fronte fiscale, perché tutto ciò riguarda una risposta alle dinamiche della globalizzazione e Washington non potrà continuare, secondo me, ad agire imponendo sia unilateralismo che extraterritorialità. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, sono giorni in realtà che parliamo di tasse, da Panama all'America, dal produttore del Viagra a quello del Botox. Tutti vogliono evitare le tasse e volevano evitarle anche i Beatles. A un certo punto George Harrison si era reso conto che la maggior parte delle royalty sulle loro canzoni se ne andava in fumo, anzi in tasse, e così decise di mock the taxman, di prendere in giro la gente delle tasse inglese. Taxman dei Beatles. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Cause I'm the taxman. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. Cause I'm the tax man. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. Tax man. Well, I'm the tax man. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!